L'altro pianeta di Laura Bettini. Sono per Giulia Maria Mozzoni Crespi questi applausi, la presidente onoraria del FAI, Fondo Ambiente Italiano, ottima relatrice del convegno Terre del Parco del Ticino, che si è tenuto a Gallarate. Presenti più di 200 ascoltatori per conoscere il parco e i suoi problemi. Il Parco del Ticino si estende, lungo il fiume Ticino appunto, su due regioni, Piemonte e Lombardia. In Lombardia ha una superficie di oltre 91.000 ettari e comprende l'intero territorio di 47 comuni tra il Lago Maggiore e il Po, nelle province di Varese, Milano e Pavia. In Piemonte invece ha una superficie di 6.500 ettari su 11 comuni della provincia di Novara. È un lungo corridoio verde che attraversa la pianura dalle Alpi fin quasi all'Appennino. Si vede dal satellite, non si vede la muraglia cinese come abbiamo sentito dire spesso, ma la striscia verde del Parco del Ticino si vede dall'alto. Ora, a controllare tutto questo ben di Dio, ci sono 16 guardie, un po' poche, no? Giuseppe Bogliani è docente di zoologia ed etologia all'Università di Pavia. Dal punto di vista naturalistico, il Parco del Ticino è l'area della pianura padana interna più importante dal punto di vista della biodiversità per due principali motivi. Primo, per la ricchezza di forme di vita, di habitat, di specie vegetali, di specie animali, anche rare, anche in cattivo stato di conservazione altrove, che qui trovano dei loro capisaldi che è importante tutelare. E sono anche specie di grande rilevanza dal punto di vista ecosistemico. L'altro motivo è che il Parco del Ticino è il più grosso corridoio che attraversa direttamente la pianura padana, partendo dalle Prealpi e arrivando fino all'asta del Po, arrivando addirittura quasi a lambire l'Appennino. Quindi, in uno scenario di cambiamento climatico globale, quando gli areali di molte specie si stanno muovendo, si stanno spostando verso nord, assecondare questi processi, assecondare, quindi a creare quella strategia che si chiama di adattamento del processo di cambiamento globale, laddove non riusciamo a contrastarlo, aiuta a mantenere dei livelli di biodiversità, quindi dei livelli di servizi ecosistemici per le persone, per le società, anche per l'economia, ma soprattutto Di autostrada naturale verso le Alpi, sia pur con tutte le sue interruzioni. Semplificando è così, e già sta succedendo. L'ultima notizia che è arrivata è quella della settimana scorsa, una notizia che ha un aspetto negativo e un aspetto positivo. Quello negativo è che è stato trovato nella tangenziale di Gropello Cairoli una istrice, che è un grosso roditore, molto grosso, con degli aculei molto grandi, investito da una macchina. Brutta notizia. Ma la bella notizia è che l'istrice, che probabilmente sta espandendo il suo areale verso nord, grazie al riscaldamento globale, ce l'ha fatta a superare il Po e sta trovando probabilmente nella valle del Ticino un ambiente che gli è congeniale. Le minacce che incombono sul parco sono tante e non si deve pensare che l'esistenza dei vincoli e di una legislazione dedicata alla sua tutela sia definitiva. Ci stiamo abituando purtroppo allo smantellamento di diritti acquisiti, ma anche di tutele acquisite da parte dell'ambiente naturale. E quindi negli ultimi anni si è allentata molto la tensione nei confronti della tutela. Basti pensare che il corpo di vigilanza è ridotto ai minimi termini, sono pochissimi ormai i guardiaparco perché non ci sono più le risorse per assumerne. 16 addirittura dicevano? 16, capisci che la capacità di sorvegliare un territorio di 91.000 ettari è parziale a questo punto. E poi c'è il cemento che avanza, quello pesante delle infrastrutture e l'incertezza per il futuro. L'Expo per il Parco del Ticino può essere una manna o una mannaia, a seconda di come si faranno le cose. E c'è l'ansia per di più della riforma nazionale dei parchi e quella per la nuova legge lombarda. Toccheremo questi due punti, la riforma lombarda e quella nazionale, molto rapidamente oggi, per poi tornarci in un'altra puntata dell'Altro Pianeta, sperabilmente con tutti gli attori. Oggi diciamo che la nuova legge lombarda, nata per semplificare la gestione dei parchi, prevede tra l'altro la trasformazione degli attuali consorzi di gestione in enti di diritto pubblico, prevede la semplificazione delle procedure di pianificazione delle aree protette e la parificazione delle procedure di modifica dei confini. Per il FAI, organizzatore del convegno di Gallarate, e per il WWF, uno degli ospiti, c'è molto da preoccuparsi. Il sistema delle aree protette, dicono, è a oggi l'unica barriera per salvare quell'equilibrio territoriale che rappresenta uno dei lasciti più preziosi da consegnare alle generazioni future. E non è convinta della nuova legge nemmeno Milena Bertani, ora presidente del Parco del Ticino. La legge regionale che è stata approvata sconta un grosso problema, che è una legge parziale che è mirato semplicemente a superare un problema di governance senza tener conto delle prospettive, ma soprattutto senza tener conto della manifestazione universale di Expo che avrebbe potuto coinvolgere tutti i parchi. Questa è una cosa che va superata velocemente, perché non è modificando l'azione di governo che si possono pensare politiche per i parchi. Oggi un pericolo grosso per il nostro parco è certamente rappresentato dal rischio di poter modificare i confini del parco, una novità introdotta dalla legge regionale. Dico che è un pericolo perché alcuni sindaci del nostro territorio, che si sentono assolutamente si sono sentiti vessati, perché in questi anni hanno avuto il loro territorio più come posso dire, più tutelato, più vincolato rispetto ad altre realtà del territorio del parco, vorrebbero proprio uscire con grandi pezzi di questo territorio e lasciarlo come macchia bianca, come francobollo bianco. Questo è sbagliatissimo, anche perché i dati che io ho potuto verificare proprio recentemente mi dicono che in quei territori lì anche i comuni fuori dal parco non hanno avuto indici edificatori maggiori di quelli nel parco, quindi non sono i vincoli del parco che hanno impedito lo sviluppo e un'economia diversa per quei territori. Ci saranno altre ragioni che devono essere indagate, ma sicuramente non sono afferibili al parco. Come se edificare fosse l'unico scopo nella vita di un comune. Comunque sentiamo anche l'opinione di Stefano Leoni, presidente del WWF Italia. I parchi in Italia sono le aree del territorio dove sono ancora maggior disponibilità di risorse, no? Perché abbiamo più natura, e su questo possiamo modellare un sistema di sviluppo che può essere anche esportato fuori. Se invece accade il contrario, che i modelli di sviluppo che sono stati energivori, di consumo totale del territorio o addirittura di pregiudicato uso delle risorse anche per sempre, come ad esempio l'area di Malpensa, le portiamo anche dentro i parchi, non abbiamo nessuna possibilità di garantire una vita dignitosa per le future generazioni. E il fatto che si cambi il modo in cui sono stati gestiti fino adesso, in che direzione va? È preoccupante, perché sembra che il modello non tenga conto di questa sfida, ma tenga solamente conto di equilibri all'interno degli stessi enti di gestione. Non è che cambiando le persone si garantisca chissà che cosa, neanche cambiando le rappresentanze, sia cambiando le menti e cambiando la cultura. Il problema ambientale è un problema culturale, e se i parchi, e giustamente noi come WWF lavoriamo su questo insieme al FAI, ma se i parchi non riescono anche a costituire uno trigger, come si dice, uno stimolo, un innesco verso un cambiamento di cultura, allora i parchi stessi non svolgono la loro funzione, non riescono a essere quella sfida che vogliamo. Come cambiamo le menti? Come cambiamo la cultura? Preservando i parchi, certamente, ma anche visitandoli, facendoli conoscere e amare. E ce ne sono di persone che amano il Parco del Ticino. Ecco i dati. Oggi i visitatori sono a metà italiani e metà stranieri. Tra gli stranieri il primo paese che visita il Parco del Ticino sono gli Stati Uniti, e quindi sono gli americani che hanno interesse per il nostro territorio. È abbastanza stupefacente che conoscano l'esistenza del Parco del Ticino. Com'è arrivata là la conoscenza? Noi supponiamo che Malpensa, che per quanto rappresenta un grosso problema per il nostro territorio, sia invece poi una grande opportunità, anche perché ci sono delle aziende che hanno molti rapporti e molte relazioni con gli Stati Uniti, e di conseguenza quando arrivano da noi si fermano, e si fermano anche per fare vacanza. Mi sembra anche giusto sottolineare che il BRIC sono i paesi emergenti che hanno a cuore il Parco del Ticino. I cinesi sono aumentati del 1300% in 10 anni. Ma anche i russi siamo attorno al 600%, gli indiani negli ultimi 4 anni sono cresciuti del 240%. Noi vorremmo intercettare questi paesi, perché vorremmo entrare in relazione con loro, non solo per sviluppare azioni turistiche, ma per creare nuove piccole economie sul territorio del parco. Avete anche monitorato le strutture, quindi ricettive, sì, per i turisti, che anche questo è un dato interessante. Le strutture ricettive nel parco sono oltre 200, e di queste generano 6.000 posti letto, ma un terzo sono tutte quelle extraalberghiere, quindi sono quel turista che piace a noi, quello che viene qui perché fa turismo lento, perché non cerca una struttura spersonalizzata ma vuole un contatto diretto, e questa è una cosa che ci fa molto piacere. E poiché si parla di visitatori e turismo nei parchi, che ne dice il ministro competente, ovvero Piero Gnudi, anche lui presente al convegno? Noi dobbiamo spuntare sul turismo diffuso, evitare che ci sia la concentrazione di tutto il turismo sulle tre località tipiche, se no queste località soffocano. Noi dobbiamo, l'Italia ha la fortuna unica al mondo di avere situazioni per cui il turista può diffondersi per tutto il territorio. I posti che sono qua sono posti fantastici che non conosce nessuno. Ecco, noi dobbiamo fare uno sforzo come paese e non considerare il turismo come una cosa di risulta, ma deve essere la prima industria del paese, perché attualmente forse è già la prima fonte di occupazione del paese. Iniziative come queste, che hanno una grandissima valenza ecologica, perché certamente bisogna salvaguardare alcune parti dell'Italia, se no, giustamente come diceva la Presidente Crespi, diventa tutto cemento e case, e non è giusto. Ma c'è un'altissima valenza anche sul piano turistico, soprattutto in una zona come questa, che è accanto a straordinarie opere d'arte. Bisognerebbe riuscire a organizzare delle gite sul parco, in modo che si fluisca tutto. E allora sarà piaciuta al ministro la proposta che il Parco del Ticino ha presentato di un percorso sulle orme di Leonardo da Vinci da realizzarsi per l'Expo 2015. Di nuovo Milena Bertani. Leonardo ha vissuto qui 20 anni, è stato a Pavia, è stato a Vigevano. Abbiamo trovato scritti dove lui racconta i cercatori d'oro del Ticino, dove lui racconta come si palificava nel Ticino. Sappiamo anche che lui ha portato, quando poi è stato alla corte di Amboise, le modalità di coltivazione della vite del Ticino, e da lì è nato anche il famoso vino della Borgogna. Sappiamo anche che qui c'erano le mozzarelle di bufala. Si dice che quando Leonardo osservava gli uccelli per il volo abbia fatto le prime sperimentazioni del volo umano, prendendo un terrazzo del Ticino ad Orre d'Isola e quindi buttando degli esseri umani dal Ticino. Quel terrazzo c'è, esiste ancora. Il progetto c'è, ha detto la Presidente. E che ci manca per realizzarlo, allora? Definire la governance del parco, prima di tutto. Così la Bertani. L'altro pianeta. Ed eccoci qui, come promesso, a tirare le conclusioni del convegno Terre del Parco del Ticino, che si è tenuto a Gallarate, con gli instancabili organizzatori, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Giulia Maria Mozzoni Crespi è presidente onorario del FAI, le diamo il benvenuto e grazie per essere con noi. Grazie. Secondo lei, qual è il risultato principale di questo incontro? Ma mi sembra che la gente, i locali, perché questo incontro è stato fatto soprattutto per destare consapevolezza nei locali, e mi sembra che la gente abbia cominciato a realizzare come tre diverse realtà possono coniugarsi e quale importanza anche strategica queste hanno per il paese, ovvero sia l'agricoltura, che è di eccellente qualità, il turismo, che ospita alcuni che vengono ma non è sufficientemente frequentato come parco, ed anche l'avvio, cioè la voglia di avviare un aiuto e delle proposte per il terziario, perché noi sappiamo che molte piccole aziende in questo momento sono in cassa integrazione oppure sono state chiuse. Tutto questo dipende, e voi l'avete ben sottolineato, anche dalla sopravvivenza stessa del parco, che adesso forse è un po' a rischio, visto la legge regionale lombarda. È molto a rischio per varie ragioni. Intanto perché ci sono cupi interessi che lo stanno minacciando, cioè la terza pista di Malpensa in questa area della Brughiera, una delle poche rimaste nel sud dell'Europa, meravigliosa. La terza pista è una scusa, perché in verità vogliono fare una grossa operazione finanziaria con alberghi, centri commerciali, eccetera. Un altro grande pericolo è l'autostrada Bofalora-Malpensa, totalmente inutile secondo i calcoli degli esperti, anche qui per favorire alcuni che vogliono investire i loro soldi e guadagnare. Terzo, anche il pericolo della bratella che deve attraversarla a nord. E poi un altro grande pericolo è un progetto di uno scolmatore che vogliono fare tra una decina d'anni, dovrebbe essere terminato. Tutto questo sarebbe possibile se cambiassero le regole attuali? Sarebbe più facile, diciamo? Questo sarebbe più facile perché mentre prima questo parco, che oltretutto è protetto dall'UNESCO, MAB, aveva un suo consiglio autonomo, come tutti gli altri parchi della Lombardia, è successo al Ticino come a tutti i parchi della Lombardia, e cioè oramai è stato disdetto il vecchio parco, consiglio del parco che era guidato da tecnici. La Lombardia più o meno l'ha preso in mano lei, ha il diritto di nominare uno dei 5 consiglieri, e noi sappiamo anche per esempi che leggiamo sul giornale che cosa vuol dire essere coinvolti con i politici della Lombardia. Per cui siamo molto spaventati, anche perché ci sono grandi pressioni affinché i confini del parco vengano ridotti, affinché ci siano dei permessi senza venire neppure controllati di costruzione per scopo pubblico, ovvero sia per scopo delle tasche di qualcuno, dico io. Per cui ci sono tutti questi pericoli che planano, ma io credo che con questo incontro anche la Regione Lombardia abbia capito l'importanza che noi stiamo dando a questo incontro, e ripeto, questo lo dico come idea mia, sarei ben felice di poter avere un incontro con l'assessore Colucci, un incontro pubblico in cui assieme dibattiamo queste problematiche. Signora, l'assessore proprio Colucci si è un po' lamentato di non essere stato invitato. Davvero non è stato invitato? È stato invitato, ma non come relatore. E questo è uno sbaglio. Me ne prendo tutte le colpe. E proprio per questo noi tra breve scriveremo al dottor Colucci per chiedergli un incontro aperto, ma non un incontro chiuso. Un incontro aperto davanti alla gente, davanti agli abitanti di questa zona meravigliosa fatta di uccelli e di biodiversità che ha come sfondo il Monte Rosa. Vorrei sapere quale altro parco ha uno sfondo del genere. Se e quando ci sarà tra voi l'incontro, Radio 24 ci sarà. Intanto la ringraziamo, Giulia Maria Mozzoni Crespi, presidente onorario del FAI. E adesso diamo il benvenuto a Maurizio Melis, che dopo gli esperimenti di Leonardo da Vinci nel Parco del Ticino ci presenterà una nuova puntata di Mr. Kilowatt. Quando la notizia uscì 2 anni fa fu accolta con molto scetticismo. Qualcuno la definì malignamente la macchina che trasforma i rifiuti in cibo. Ora, dopo 2 anni di test condotti dall'Università degli Studi di Milano e dalla Sapienza di Roma, è invece evidente che la tecnologia ISTA rappresenta una grande promessa. Parliamo di una sorta di mulino avanzato che sfrutta delle correnti d'aria ad alta velocità per macinare biomasse povere come la paglia o i residui di potatura, riuscendo ad estrarne una certa quantità di farina. Da un quintale di paglia si ottengono 20 kg di un prodotto che ha un contenuto nutritivo appena superiore a quello della farina d'orzo. Com'è possibile? In pratica la tecnologia HIST disgrega la ragnatela di lignina che nei tessuti vegetali avvolge in gabbia sostanze utili come gli amidi, le proteine, ma anche la cellulosa e l'emicellulosa, che così vengono rese disponibili agli attacchi enzimatici, cioè diventano digeribili e assimilabili dagli esseri umani piuttosto che dei batteri. Le farine così prodotte sono adatte sia all'alimentazione animale che all'alimentazione umana. Infatti c'è un grande interesse per questa tecnologia da parte di numerosi paesi dell'Africa subsahariana. Ma ancora più sorprendenti sono i risultati ottenuti nella produzione di biogas. Sottoponendo la paglia al trattamento HIST prima di processarla ulteriormente, la produzione di biogas raddoppia e anche più. Anche per i microrganismi che producono biogas, infatti cellulosa ed emicellulosa risultano più digeribili dopo il trattamento. trattamento. Questo raddoppio di produttività rende di fatto economicamente conveniente l'utilizzo della paglia per produrre biogas, cosa che prima non era. È una grande opportunità per l'agricoltura, che potrebbe disporre di un reddito in più a partire dalle stesse identiche coltivazioni, anzi da uno scarto delle attuali coltivazioni, ma è una grande opportunità anche per il paese. Secondo i ricercatori della Sapienza, trasformando in biogas le paglie che già oggi produciamo in Italia, potremmo produrre l'equivalente del 20% del fabbisogno nazionale di benzina. Sarebbe una piccola rivoluzione. Di tutto questo parleremo più approfonditamente nel corso della settimana all'interno della trasmissione Smart City in onda alle 21.05 su questa radio. Grazie a Maurizio Melis e bentornato anche a Marco Carminati, che è il curatore di Articolo 9, la nostra rubrica dedicata alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi abbiamo in collegamento con noi Carlo Ripa di Meana, che è il presidente della sezione di Italia Nostra di Roma. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, lei dalla sua bella Roma ci vuole portare a Tivoli per andare a visitare un monumento di importanza straordinaria nella storia antica, la Villa Adriana. Ecco, ci spieghi innanzitutto che cos'è la Villa Adriana. È il buon ritiro dell'imperatore Adriano, uno dei massimi dell'antichità, spinse Roma fino al nord della Scozia, la estese nell'Oriente, nel vicino Oriente, diede un impulso grandioso, artistico, poetico, architettonico. Questo era Adriano, che lì si era costruito la sua villa, la sua casa. Adriano aveva conosciuto e cantato Antino, amore della sua vita, perduto nella campagna di Egitto. E Margherita Yourcenar, una grande scrittrice, nel 1951 scrisse i memoir d'Adrien, un resoconto apocrifo delle memorie, ma formidabile di per sé. E da quella data ogni estate centinaia di migliaia di visitatori e spettatori seguono l'edizione teatrale delle memorie di Adriano. Insomma, la Villa di Adriano è veramente il riflesso di questa personalità straordinaria che ci raggiunge attraverso i secoli con la sua cultura, attraverso anche la letteratura contemporanea. Ma perché voi di Italia Nostra siete così allarmati per il destino di questo luogo incantato? Siamo trepidanti e sconvolti all'idea che per tornaconti inconfessabili si voglia piazzare a 700-800 metri in linea d'aria dal perimetro della grande villa, in larga parte ancora da scoprire, certo, archeologicamente, la maggiore discarica di Roma, quella che oggi è a Malagrotta e che in giugno deve chiudere, una discarica enorme che ogni giorno movimenta 600 tir che portano la monnezza in quella direzione. Ora dovrebbero girare e raggiungere la Villa Adriana con la cava di Corcolle, che è una cava di pozzolana accanto, dove amministratori, commissari e persone prive di ogni e qualsiasi conoscenza che sia diversa dalla regola burocratica hanno immaginato di metterli la monnezza romana. Insomma, un vero insulto. Massacro. Un vero insulto. Naturalmente il tanfo raggiungerebbe i Pecile, i laghi, il canopo, tutto, certo, quello che con l'acqua e con le statue e con le colonne Adriano si era riservato per i suoi colloqui personali, i suoi isolamenti, per disegnare e scrivere e poetare in quelle stanze di natura fatte di acqua e di vento e di cavità, sarebbero raggiunte dal lezzo di una gigantesca discarica tal quale, dalle colonie di gabbiani che dal mare, certo, arrivano stridendo per cogliere qualcosa dal rifiuto. Ecco, quale può essere una soluzione in questo problema? Guardi, ce ne sono molte. Naturalmente non sono in grado di dare tutte le garanzie né idrogeologiche, nel caso romano sempre anche archeologiche, ma c'è un'enorme zona non lontano da Malagrotta, libera, i monti degli Ortacci. C'è un'altra grande zona lungo la direttrice nord dopo Prima Porta, si chiama la Colle dell'Olmo. Ci sono assolutamente molti spazi da approntare che non presentano controindicazioni maggiori. Naturalmente bisogna sapere di più, ma è folle che la Presidente Polverini e il Commissario Pecoraro si siano presentati con due sole opzioni. La prima, Corcolle, che è risultata subito impraticabile, si è alzato contro questa ipotesi mezzo mondo, l'Accademia di Francia, il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, l'UNESCO, tutte le scuole archeologiche europee e americane, insomma c'è una sollevazione indomabile contro questa ipotesi, e anche quella di Riano Famigno appare precipitosa e insufficiente. Presidente, io la ringrazio moltissimo per questa battaglia che viene fatta naturalmente nell'interesse non solo di Roma e della Villa Adriana, ma di tutto il nostro paese, che di questo patrimonio straordinario che anche Adriano ci ha lasciato vive ed è celebre nel mondo. La ringrazio moltissimo della sua partecipazione. Grazie, Presidente. Speriamo di riuscire. Speriamo di farcela, e a tutti gli ascoltatori una buona giornata. Bene, grazie a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Grazie anche a Laura Faggini che ci ha aiutato nella puntata, e appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.